Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi direi che dedicata a un unico personaggio, John Airbagon, è un personaggio abbastanza emblematico di quanto sta accadendo sulla nuova scena americana, ma non solo, di artisti appunto che hanno una caratteristica in comune, grandi qualità tecniche e un'estrema versatilità che però paga anche un prezzo che è quella di una certa confusione nel senso espressivo. Quindi si muovono, probabilmente Airbagon è il prototipo di questo tipo di talenti, si muovono con molta agilità anche in contesti molto diversi tra di loro. E quest'anno, ad esempio, Airbagon ha imperversato con una quantità di incisioni e di partecipazioni a gruppi e progetti diversi è veramente enorme. Oggi ne ascoltiamo alcuni di questi, probabilmente anche gli ultimi usciti negli ultimi mesi, settimane. E, dicevo appunto anche la partecipazione a gruppi, ormai come dire una partecipazione in solido con alcuni tre più importanti gruppi sulla scena. Cominciamo da Dave Douglas, il quintetto di Dave Douglas che ormai si è legato a una forma espressiva già da tempo di tipo mainstream, quindi ripercorrendo quelle che sono le tappe, varie tappe della storia dell'hardbop e del post-hardbop. Quindi ha perso quella connotazione che era tipica della sua personalità, che era di ricerca costante. Appunto, l'ultimo quintetto vede una presenza negli ultimi anni piuttosto stabile, che è quella di John Airbagon. Si aggiungono Matt Mitchell in questo caso, questa è una nuova entrata. Matt Mitchell, pianista che anche lui è legato a linguaggi dell'avanguardia, che in questo contesto però cambia il suo carattere. E Rudy Royston alla batteria e Linda O al contrabbasso, quindi sono ormai collaboratori da tempo. E in questo caso direi che forse si vede una qualche luce di novità anche nel linguaggio di David Douglas e soprattutto nelle composizioni. Hanno un carattere più definito, danno anche abbastanza spazio alle parti solistiche, cosa che negli ultimi tempi era abbastanza limitata. Ascoltiamo un paio di brani presi da questo ultimo lavoro uscito quest'anno, intitolato Brazen Heart. Thank you. era il quintetto di Dave Douglas, dove abbiamo ascoltato appunto che le qualità tecniche espressive di John Ira Begon sono decisamente di alto profilo. Tra l'altro questo più che attivo musicista, e nonostante abbia ormai una discografia da fare invidia a un anziano, è giovane, ha 36 anni, per cui insomma è evidentemente uno stile quello di muoversi su territori completamente diversi uno dall'altro e lasciare tracce oppure comunque lasciare che questo accada. Altro esempio, un ricostruito trio di Barry Hatchold, questo è il secondo, la seconda uscita per questa formazione, una formazione in trio che probabilmente Barry Hatchold è anche memore di quell'antica esperienza che straordinaria di quel trio con Sam Rivers. E qui ripercorre un po' gli stessi schemi, anche perché Ira Begon suona tutta la gamma dei sax e anche il flauto. Oltre naturalmente alle percussioni di Barry Hatchold, sempre, devo dire, straordinario, si aggiunge anche il contrabbasso di Joe Fonda, che si conferma anche in questa occasione come un sostegno veramente notevolissimo. Ascoltiamo due momenti. Il primo è uno standard conosciuto, riletto appunto con questa formazione in trio, dove ovviamente l'aspetto primario riguarda il sax di John Ira Begon. Poi ascoltiamo una composizione di Barry Hatchold. Mm-hmm. Questo era il trio di Barry Hatchfield, dove abbiamo ascoltato tra l'altro il basso, il bellissimo suono del contrabbasso di Joe Fonda e il alleanze John Arbuckle, che come dire, cerca strade espressive che si differenziano poi a seconda delle occasioni. Un'altra delle proposte, ecco, dicevo delle partecipazioni a vari gruppi, gruppi anche ben titolati, penso anche al gruppo di Mary Halvorson, oppure che oggi non ascoltiamo, oppure anche quello che abbiamo ascoltato già in passato, di un disco uscito quest'anno del gruppo di Longboom, che anche questo è un gruppo ben consolidato e anche di livelli elevati. Ma anche come leader di un proprio gruppo, di propri progetti. È uscito un disco in sax solo, ad esempio, quest'anno, e del quale francamente non se ne capisce molto la funzione, oltre che una sorta di esercizio o di palestra delle grandi qualità tecniche che riesce a esprimere Arbuckle. E poi anche una formazione sua molto legata a una sorta di mainstream o di neo-hardbop, una formazione tra l'altro particolare, perché vede anche la presenza in alcuni brani di Tom Harrell alla tromba. Poi vediamo anche Luis Perdomo al pianoforte, Luis Perdomo che è un pianista portoricano che è venuto, diciamo, più alla ribalta accompagnando costantemente un nuovo talento emergente che è Zanon, che abbiamo ascoltato anche a Bologna. E poi al basso Yasushi Nakamura e Rudy Royston alla batteria, una ritmica decisamente ben sostenuta. Il risultato è apprezzabile, pur avendo un'atmosfera mainstream che quindi non può dare punte particolari, anche se di buona qualità. Ascoltiamo una di queste composizioni, che sono composizioni di Arbuckle, quindi ne ascoltiamo una. Thank you. questo era l'ultimo disco uscito firmato da John Ira Begon, intitolato Behind the Sky. Un disco con dei punti apprezzabili, sicuramente legato a una grande qualità di mainstream, ma senza delle punte particolari, dove appunto il suo solismo si esprime all'interno di un contesto molto canonico. E il gruppo che sicuramente gli ha dato più spazio e più modo anche di essere conosciuto a John Ira Begon è un gruppo con un titolo eterno, Mostly All the People Do the Killing. Questa formazione, che è ormai ha molti anni sulle spalle, si deve a un'idea di Moppa Elliott, contrabbassista, e Kevin C, batterista, soprattutto Moppa Elliott. Poi si è aggiunta anche proprio come parte stabile, ferma di questa formazione, John Ira Begon, con anche un'altra presenza che era Peter Evans, altro giovane talento di grandi qualità, trombettista di questa nuova generazione di trombettisti, come dire, sorprendenti per le capacità tecniche e per la vitalità espressiva. Era una formazione in quartetto che riprendeva inizialmente quello che poteva essere perlomeno come evocazione, quella colemaniana dell'Ornette Coleman degli inizi, e quella con Don Cherry, insomma, per intenderci. Poi ha preso forme anche piuttosto diverse. Intanto, ecco, recentemente, questo nell'ultimo anno, è uscito in modo definitivo Peter Evans dal gruppo, ed è entrato in modo definitivo, aveva già collaborato in altre occasioni, comunque è entrato stabilmente, in questo caso, Ron Stabinski, pianista giovane, con buone qualità, ha una formazione, una preparazione di tipo accademico, classico, la si avverte anche nel tocco, soprattutto nel tocco e nella modalità di accompagnamento, sempre molto classico, con Ron Stabinski al pianoforte e Ira Begon al sax contralto. We'll be right back. Questo era il gruppo guidato da Moppa Elliott, Kevin Shee e poi anche John Ira Begon e Ron Stabinski, chiamato Mostly of the People Do the Killing, nell'ultimo lavoro uscito recentemente intitolato Maoch Chuck. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito radiocittafugico.it, alla sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salt peanuts.